Cominciamo quindi la serie degli interventi, e abbiamo tempo sufficiente credo per sviluppare alcuni, e stando ciascuno direi nel limite massimo dei 10 minuti. Ecco. Io ho chiesto di aprire questi interventi al professor Pellegrino dell'Università di Lecce, perché tra l'altro ecco, la voce del Sud, diciamo, è una voce che è mancata, ecco, la poteva portare qui anche il professor De Rosa, se fosse venuto, perché il professor De Rosa ha anche questa grossa esperienza di sollecitatore di studi sul mezzogiorno socio-religioso. Il professor Pellegrino. Sì, grazie. Io devo ringraziare il professore Paolo Prodi e l'Istituto per l'invito che mi viene fatto di intervenire, però non essendo stato programmato, questo mio contributo ha necessariamente i caratteri della estemporaneità e della provvisorietà. E poi, come accennava il professor Prodi, sento un po' una responsabilità eccessiva sulle mie spalle, visto che sarei l'unica voce in questo caso. Non c'è nemmeno Don Palese, che mi sembrava avere visto iscritto tra coloro che dovevano intervenire, ma non lo vedo, quindi aveva promesso, ma Bari tuttavia interveniva come socio dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica di Roma, quindi in ogni caso, dicevo, ecco, mi sembra un po'. Ma appunto una voce un po', come dire, più che la mia, per dar voce a una tanta parte di ricerca che anche in altri centri non accademici o nelle università meridionali si svolge sul versante della storia religiosa, e devo dire anche dove la visita pastorale non è, anche io non, stesso non sono un esperto di visita pastorale, come dirò tra breve, e dove però indubbiamente la visita pastorale è spesso protagonista prima di tantissime ricerche. Io a queste ricerche vorrei un attimo molto rapidamente, ripeto ed estemporaneamente, accennare. Intanto recitando un duplice mea culpa, perché uno relativo all'Istituto Storico Italo-Germanico, con cui pure sono stato in contatto, ma senza mai intervenire personalmente alle numerose e qualificate iniziative alle quali sono stato invitato, e l'altro nei confronti della visita pastorale, come dicevo, una fonte alla quale, così piluccando, ho sempre attinto per varie ricerche che ho sfruttato frequentemente, anche come potete immaginare, nell'assegnazione di tesi di laurea, alla quale ho prestato attenzione fin da quando recensì per Quaderni Storici nel 70 i primi volumi delle visite pastorali del Veneto, quelle citate poco fa del gruppo di De Rosa, ma alla quale non ho mai dedicato, almeno direttamente e personalmente, una pubblicazione che avesse il carattere di una autonoma organicità. Anche se in una cinquantina di titoli circa delle pubblicazioni che ho l'onore di dirigere per il Dipartimento di Studi Storici della mia università, compare l'edizione della visita pretridentina della diocesi di Nardò, curata dal collega Vetere e molto ben segnalata, per i criteri adottati, già nella prima edizione del volume di Turchini e Mazzone sulla visita pastorale. Ma per restare a qualche titolo della stessa collana universitaria, sempre la visita pastorale, ad esempio, è stato un punto di riferimento obbligato, anche se in misura diversa, in 3 convegni che ho organizzato sempre nella mia università nell'ultimo decennio, sia quando abbiamo affrontato per esempio in un tema territoriale come società, congiunture demografiche e religiosità in terra d'Otranto, demografia quindi necessariamente abbiamo attinto, sia quando meno che mai ci si aspettava che questa fonte potesse essere di sicura utilità, e cioè quando abbiamo dedicato un'iniziativa di un certo spessore, perlomeno quantitativo, alla problematica relativa a ordini religiosi e società nel mezzogiorno moderno, sia infine quando 3 anni fa, in un'assise internazionale alla quale hanno partecipato anche amici e colleghi che ancora qui vedo, come Umberto Mazzone e Claudio Donati, che credo arriverà domani, adesso non lo vedo, ecco, ciao, dedicata a Innocenzo XII, la grande personalità della Chiesa di fine Seicento, della quale ovviamente non si era previsto di rivedere soltanto l'opera antinepotista o i rapporti col giansenismo o con Luigi XIV, o la sua riforma dei regolari o la sua esperienza di grande esponente della diplomazia pontificia, ma anche appunto la sua esperienza pastorale. Se questa però è un'attenzione relativamente recente ad una problematica derivante dalla consultazione doverosa di una fonte importante come la visita pastorale e dal suo altrettanto doveroso confronto critico con altre fonti, non posso non riandare ancora più indietro nel tempo a quando, ad esempio, Paolo Prodi, proprio a Lecce 20 anni fa, in un incontro tra storici italiani e polacchi, poneva tra gli altri il problema della resa ai fini di una certa tipologia ricostruttiva delle relazioni per le visite ad elimina messe appunto a confronto con gli acta visitationis. E ancora più indietro nel tempo non posso trascurare di riandare ai primi risultati delle ricerche degli studiosi che a partire dalla metà degli anni 60 si erano raccolti intorno al progetto dell'Atlante storico italiano e che furono presentati al colloquio internazionale di cartografia ecclesiastica tenutosi a Varsavia nel 71. La delegazione italiana era appunto formata da Cinzio Violante, Fonseca, il professor Paolo Prodi, Achille Erba, Mario Rosa e da qualcuno più giovane come me. In quella circostanza mi tocco presentare un breve intervento su una regione significativa del Mezzogiorno d'Italia, la Basilicata. L'intervento era in verità breve, ma per definirlo avevo fatto negli ultimi anni 60 un'esperienza di ricerca per me interessantissima e formativa. Guidato da Mario Rosa, con cui mi ero appena laureato e che mi aveva altrettanto presto conferito il beneficio che dovrei definire ecclesiastico, considerata la materia delle sue frequentazioni di quegli anni e un incarico di assistente alla sua cattedra di storia moderna, visitai con una gloriosa Fiat 500 per lungo e per largo a tappeto tutti gli archivi vescovili della Basilicata, attraverso itinerari che fatti salvi l'asfalto odierno e il mezzo di locomozione, conservavano a distanza di 2 secoli e mezzo il carattere della impervietà, la stessa che i vescovi avevano spesso invocato come causa della loro mancata ispezione. Oggi la situazione delle arterie stradali in Basilicata è ovviamente totalmente diversa, sia per il vigoroso intervento di alcuni esponenti politici originari di quella regione, ma di gran peso nella politica nazionale degli anni 60, 70, 80 e ancora oggi, sia per il carattere che io ho spesso definito provvidenziale del terremoto dei primi anni 80, un evento dopo il quale, soprattutto per merito delle capacità organizzative, oltre naturalmente che per la solida impostazione scientifica data a quell'operazione da Gabriele De Rosa ed Antonio Cestaro, l'intera materia relativa alle fonti ecclesiastiche della regione è stata sistematicamente affrontata in termini concreti di salvaguardia del patrimonio archivistico e librario. Ma tornando alla mia esperienza sessantottesca, in questo caso naturalmente il termine ha un significato cronologico puro e non ha riferimento alcuno al suo senso epocale, devo dire che fu quell'occasione durante la quale presi coscienza della rilevanza della fonte, dell'urgenza di un intervento razionale e programmatico su di essa, e non solo da un punto di vista della sua analisi, ma anche da quello della sua salvaguardia materiale. Ripeto, per quanto riguarda me, a Varsavia non potetti che presentare un contributo minimo, ma dopo pochi anni, pur se l'esperienza dell'Atlante, ormai affievolitasi per il depennamento del finanziamento da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si avviava a prematura conclusione, fu pubblicato per i tipi della Herder il volume di Achille Erba sulla Savoia, esempio tra l'altro appunto prezioso di come una fonte come gli atti di visita pastorale potesse essere utilizzata con oculatezza, equilibrio e rigore. Certo, non posso ripercorrere in questa sede senza averci riflettuto almeno un po' le numerose iniziative, occasioni, pubblicazioni nelle quali la fonte visita pastorale è stata la protagonista eccellente e comunque indispensabile delle ricerche della storia sociale e religiosa del Mezzogiorno d'Italia, sia per la vastità della realtà storico-geografica alla quale ci si dovrebbe riferire, sia perché non la mia, ma solo voci molto autorevoli, come sarebbe stata quella di Gabriele De Rosa, potrebbero con molto maggiore esperienza e capacità assolvere questo compito. Tuttavia, sempre procedendo molto estemporaneamente, sono d'obbligo almeno alcuni riferimenti a quelle che mi sembrano le esperienze più significative della ricerca nel campo della storia religiosa del Mezzogiorno d'Italia nell'ultimo quarto di secolo e nelle quali, come dicevo, direttamente o indirettamente, in misura minore o maggiore, gli atti di visita svolgono un ruolo quantomeno specifico. Se è vero, come accennato, che l'Atlante storico italiano non ebbe vita fortunata, tuttavia non bisogna dimenticare il suggestivo contributo col quale Mario Rosa, dalle pagine della Nuova Rivista Storica del 1969, ne lanciò il programma e quei primi risultati che se ne ebbero a Varsavia e poi il citato volume di Erba e quindi anche alcuni contributi apparsi in sedi varie relative agli Abruzzi, al Molise, alla Puglia, a Terra di Lavoro, alla Basilicata, dovuti rispettivamente a Don Vito, Gallotta, Fino e a chi vi parla. Molto più cospicua è indubbiamente la mole di lavori dovuta alla febbrile attività svolta da Gabriele De Rosa con la collaborazione di Antonio Cestaro nell'organizzare veri e propri stuoli di ricercatori e di studiosi operanti tra il Salernitano e la Basilicata. Con la costante di una formula fortunata, il binomio Mezzogiorno e Basilicata, dai primi anni 70 e fino ai giorni nostri sono stati realizzati importanti convegni come Religione e società in Basilicata in età moderna, dove la presenza di numerosi storici francesi determinò un serrato confronto, siamo ai primi anni 70, di una giovane storiografia socio-religiosa italiana con la già adulta sorella d'Oltralpe, cui fecero seguito, ma procedo veramente a grandissimi passi, i due convegni sulla parrocchia, quello su cui la parrocchia dell'età moderna e quello dell'età contemporanea, cui seguirono ancora i numerosi seminari di Maratea sull'applicazione del Concilio di Trento, consacrati da due corposi volumi degli atti del convegno finale. E se De Rosa e Cestaro organizzavano e coordinavano, come ancora oggi fanno, la ricerca in Basilicata, nella contermine regione campana operavano il gruppo di studiosi raccolti intorno a Campania Sacra e, in ambito accademico, la scuola di Giuseppe Galasso, che nella ormai matura impostazione data ai propri collaboratori da Carla Russo, da cui scomparsa ancora noi tutti piangiamo, giungeva ad egregi risultati sia nelle ricerche originali della stessa Carla Russo, tutta tesa ad approfondire negli ultimi tempi la particolare specificità della parrocchia dell'immenso Interland napoletano, sia nelle ricerche dei suoi collaboratori, il cui ultimo datilo scritto mi affidò qualche settimana prima di lasciarci, comparso poi nella collana del mio dipartimento come volume dal titolo Chiesa, Assistenza e Società nel Mezzogiorno Moderno, che con Gabriella Zarri, Maria Antonietta Visceglia e lo stesso Galasso abbiamo recentemente presentato presso la Società Napoletana di Storia Patria, occasione durante la quale, devo aggiungere, sempre Galasso ha fissato l'importanza storiografica della presenza di Carla Russo nell'ambito della storia religiosa italiana. Non dico nulla della Puglia, anche perché sarei coinvolto personalmente, probabilmente se verrà a Paresi dirà qualche cosa lui, soltanto un cenno: a Bari, con la collaborazione della sovrintendenza archivistica, per esempio, c'è un centro di ricerca relativo alla storia della grande, come ampiezza, archidiocesi di Bari, e anche un recupero in termini, credo anche informatici, di una campionatura di archivi parrocchiali, mentre nell'Università di Lecce, per quello che anche io con tanti altri amici, colleghi e collaboratori posso fare, tutta una serie di ricerche vanno anche in questa direzione. E per la Calabria, un semplicissimo cenno alla Calabria, basterebbe citare il nome di Maria Mariotti, nome non accademico, come è noto, ma apprezzatissimo dagli ambienti accademici, e con in più il vantaggio di aver saputo, la studiosa calabrese, aggregare le migliori forze della deputazione di Storia Patria e convertirle, come potete immaginare cosa non facile, a praticare i sentieri della moderna storiografia religiosa. Devo aggiungere che l'intensa operosità della Mariotti e dei suoi amici e collaboratori calabresi ha avuto eco anche in Sicilia, dove, come in Calabria, mi è parso però, non vorrei sbagliare, anzi questa constatazione, la ricerca di ambito universitario ha seguito solo occasionale per quanto attiene alla storia religiosa. Almeno questa è l'impressione che ho avuto qualche tempo fa, nel presentare nella sede di un centro studi storico-religiosi di Caltanissetta un volume retrospettivo di studi della stessa Mariotti pubblicato dall'editore Sciascia in occasione dell'80° compleanno della studiosa. Ma in Calabria, come dicevo, l'attività è notevole. Non solo le opere della Mariotti e del suo gruppo sono estremamente sensibili alla visita pastorale, ma c'è una complessiva attenzione al passato religioso. Appena 2 settimane fa abbiamo passato in rassegna il territorio della Piana di Gioia Tauro, oggi diocesi di Oppido Mamertina Palmi, nella sua strutturazione ecclesiastica in età moderna e contemporanea, un convegno voluto dalla Chiesa locale, lasciato naturalmente aperto alla libera interpretazione dei fenomeni indagati, e conclusosi con una coraggiosa tavola rotonda finale sul tema Chiesa e criminalità organizzata. Chiedo ancora scusa per la frammentarietà ed estemporaneità di questi richiami e di qualche sparsa considerazione che quella ho potuto fare. Chiedo ancora scusa non solo agli ascoltatori presenti, ma anche a quanti che assenti sono però protagonisti individualmente o in gruppo di varie attività di ricerca che non ho potuto e saputo ricordare. Vorrei però, in conclusione, cercare qualche senso anche per la realtà alla quale mi sono riferito, almeno per quello che vuole essere l'idea generale di questo incontro, i cui propositi, ma quello che è emerso già finora lo dimostra ampiamente, mi sembrano molto, molto interessanti. E lo spunto per la mia considerazione conclusiva mi viene dato da quella che per me è una realtà quotidiana. Io faccio lezione nei locali di un maestoso monastero olivetano, già abbazia benedettina, fondato al tempo dei Normanni, da Tancredi. Per ben 3 secoli, dall'ultimo 400 fino alla soppressione francese, abitato da olivetani, presenti nella società leccese con la loro spiritualità, ma anche con ricchi ed ampi possedimenti strettamente intrecciati con la vita economica della città, sicuramente provvisti di una biblioteca, come risulta da un codice Vaticano Latino, e da un archivio, come risulta da carte che ho consultato a Siena al loro archivio generale presso Monte Oliveto Maggiore, andati dispersi ambedue dopo le soppressioni francesi. Ebbene, alla fine le poche testimonianze relative alla loro presenza sono contenute negli atti di visita pastorale conservati nell'archivio arcivescovile di Lecce. Come quindi non parlare di questa fonte ai giovani che chiedono conto del luogo in cui studiano? La visita pastorale, quindi, è fonte comunque indispensabile. Adesso, il mio non vuole essere un relativismo proprio molto sciatto, ma devo dire che in quanto studioso della storia sociale e religiosa italiana di antico regime, sono convinto che sia senz'altro ancora oggi utile, opportuno, indispensabile in alcuni casi, una ulteriore, se vogliamo, sistemazione, possibilmente anche computerizzata, dati i tempi, del discorso sulla fonte visita pastorale. Perché comunque vadano le cose, quali che siano le tecniche e le tipologie interpretative della materia, più è sistematico e razionale la possibilità di analisi di quanto ci è pervenuto, più elementi avremo per ricostruire l'identità storica di 500 anni, di un mezzo millennio circa che ci abbandona, della storia di una società che certamente ormai alle soglie di un terzo millennio si è avviata ad avere connotazioni completamente diverse. È un po' come salvare la nostra stessa identità. Un doppio grazie a Pellegrino perché, per questa sua sintesi e poi perché l'abbiamo costretto in qualche modo improvvisamente. Ecco. Però io credo che poi negli atti questo potrà tradursi anche in una cosa documentata, perché la presenza del Sud, insomma, ecco, cioè il problema delle due Italie, anche per questa storia religiosa e oltre che per la storia sociale, quindi sia troppo importante, poter scivolare via senza. Forse almeno il problema, e quindi grazie per questo.